Nuovi arresti nell'inchiesta calcio, scommesse e manette. Il capitano della Lazio, indagati fra gli altri Conte e Criscito. Perquisizioni anche a Coverciano. Al processo a Milano alle nuove BR, minacce ad Ichino. Ci sbarazzeremo del tuo sistema. Napolitano ricorda la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Pezzi dello Stato, dice, hanno lavorato contro la verità. Avrebbe ucciso la moglie indiana perché voleva vivere troppo all'occidentale. La donna voleva anche il divorzio. Mark Zuckerberg e la moglie Priscilla in viaggio di nozze a Roma nei giorni più difficili di Facebook. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Dunque, perquisizioni e arresti. È cominciata così la giornata per le forze dell'ordine impegnate in un nuovo capitolo nell'ambito dell'inchiesta sul calcio scommesse. Allora, ripercorriamo queste ore, ripercorriamo la mattinata in diretta con il nostro Andrea Viali. Sì, buongiorno. Quella di oggi è la terza tranche di arresti nell'inchiesta Last Bet della Procura di Cremona. Inchiesta iniziata un anno fa, fra le 19 persone finite in carcere oggi i nomi eccellenti sono quelli dell'aziale Mauri, dell'ex genuano Milanetto e di Bertani della Sampdoria. Fra i molti indagati figurano invece il difensore della nazionale Criscito e l'allenatore della Juventus Conte, quest'ultimo per fatti che si riferiscono a quando era sulla panchina del Siena. Per entrambi oggi ci sono state anche delle perquisizioni a Criscito, l'avviso di garanzia è stato consegnato dalla polizia a Coverciano, dove si trova in ritiro con gli altri azzurri. Sotto la lente degli inquirenti ci sono diverse partite del campionato 2010-2011 di Serie A, ma anche e soprattutto di Serie B, i cui risultati sarebbero stati truccati dall'organizzazione finita al centro di questa inchiesta. 7 partite sono soltanto quelle giocate dal Siena, ma fra i risultati combinati ci sarebbe anche quello di Lecce-Lazio, partita per la quale sono stati arrestati anche alcuni ungheresi, e proprio di questa partita ha parlato, fra l'altro, stamattina in conferenza stampa il procuratore capo di Cremona, Di Martino. Sentiamo cosa ha detto. Lazio-Lecce, tornando un po' a quella che è stata la rogatoria ungherese, che ci ha consentito di appurare che c'è stato un guadagno di circa 2 milioni di euro per queste scommesse e 600.000 euro utilizzate per la corruzione dei calciatori. Ecco, rispondendo alle domande dei giornalisti, Di Martino ha parlato anche della durata di questa inchiesta, ha detto che se si volesse si potrebbe andare avanti in eterno, ma questo è comunque impossibile perché la sua procura non ha i mezzi per andare avanti. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Queste dunque le notizie delle ultime ore, fatti che potrebbero avere conseguenze anche all'interno della nazionale. Qui accanto a me Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Piera, sì, hai detto bene, ci potrebbero essere conseguenze. La prima di queste è la esclusione di Criscito, Domenico Criscito, ora che è indagato, dalla lista dei 23 giocatori che oggi viene scelta da Prandelli per gli europei. In effetti, dopo l'informazione di garanzia che ha ricevuto il difensore, sarebbe logico che venga escluso. Già il nostro calcio all'estero in questo momento non gode di buona fama, proprio stamattina Giovanni Trapattoni ha detto che ci siamo derisi, e detto tutto questo, per quanto valga la presunzione di innocenza, ricordiamo però che per il codice etico proprio Prandelli aveva già lasciato a casa Ballotelli per episodi molto minori, quindi credo che la nazionale si muova così. Comunque a Criscito ha detto che vuole parlare subito coi PM, e a questo proposito sentiamo proprio cosa ha detto su Criscito il procuratore capo Roberto Di Martino. Siccome c'è stato un intervento a Coverciano, vorrei che la cosa non sia enfatizzata eccessivamente, nel senso che l'intervento si riferisce soltanto alla persona di Criscito, che ha ricevuto un'informazione di garanzia che con riferimento al quale doveva essere svolta una perquisizione, quindi c'era il problema di consentirgli di partecipare alla perquisizione o di nominare una persona che in sua vece partecipasse alla perquisizione. Quindi è un problema che riguarda solo il calciatore Criscito e non ci sono altri soggetti facenti parte della nazionale. E proprio in questi istanti le convocazioni azzurre. Allora, com'è andata, Dario? Sì, al momento Demetrio Albertini ha detto che Domenico Cristo non fa parte della lista dei convocati per Euro 2012. Quindi, a conferma di quello che stavi dicendo. Proprio quello che stavamo dicendo, siamo stati facili profeti, perché in effetti era una posizione così che non era sostenibile. E ritornando a quanto è stato detto dal procuratore capo, lui minimizza, dice che non ci sono altri nazionali coinvolti nell'inchiesta, però il blitz, le volanti che arrivano a Coverciano alle 6:25 al mattino fanno il loro effetto anche simbolicamente. C'è un problema di immagine nel nostro calcio che alla vigilia degli europei non possiamo dimenticare. Ecco, molti ricordano che nel 2006, quando ci fu l'inchiesta su Calciopoli, gli azzurri in Germania diventarono campioni del mondo. Va bene, questo è, diciamo, siamo strani noi italiani, però questo nuovo episodio scredita ulteriormente un calcio già ben poco immacolato. Grazie al nostro Dario Ceccarelli. Veniamo ad un'altra vicenda piuttosto oscura, la vicenda dei corvi in Vaticano. Si cercano i complici e i mandanti del maggiordomo Paolo Gabriele, mentre oggi un altro corvo racconta il retroscena dello scandalo. Lo facciamo per aiutare il Papa a difenderlo dallo strapotere del segretario di Stato Bertone e denunciare il marcio della Chiesa. Così, in estrema sintesi, uno dei presunti corvi giustifica la scelta di rubare documenti riservati e diffonderli all'esterno del Vaticano. In forma anonima, questa persona molto informata racconta che i corvi sono molti a tutti i livelli. Ci sono i cardinali, i loro segretari, i monsignori e i pesci piccoli. Tra questi Paolo Gabriele, che sarebbe solo l'ultimo anello di un meccanismo messo in atto con l'epurazione di Monsignor Viganò, spostato dal governatorato all'annunziatura di Washington. Al di là delle rivelazioni di turno più o meno attendibili, quel che è certo è che l'aiutante di camera del Papa non ha agito da solo e per proprio conto, e presto potrebbero arrivare nuovi arresti. Dopo giorni di silenzio, infatti, Paolo Gabriele starebbe cominciando a parlare, mentre gli uomini della gendarmeria stanno passando al setaccio i documenti trovati a casa sua. Ne hanno portato via 4 casse, i tabulati telefonici e le email. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nella storia del papato del Novecento non si era mai vista una tale disponibilità a tradire il Papa fra le persone a lui vicine. Così lo storico della Chiesa Alberto Melloni lo ha intervistato ancora. Katia Caramelli. Di cose schifose ne erano successe molte. La vendita delle foto del cadavere di Pio XII, il passaggio di carte da Sant'Uffizio a un giornale contro il Papa nel 62 e tutta quanta la vicenda Marcinkus. Quello che è peculiare e grave di questa cosa è che c'è una specie di disegno, vengono commessi dei crimini canonici e non solo, gravissimi, con un'intenzione che è difficilissima da diagnosticare, ma che produce l'effetto di un grande disordine sistemico. Per troppo tempo nella Chiesa italiana, e non solo, ma questo è un fatto soprattutto italiano, ci si è fidati dell'idea che un po' di gossip e un po' di rapporto obliquo con il giornalismo potesse servire a regolare i conti interni della Chiesa. Adesso si paga un prezzo altissimo per questo errore. Non c'è un altro paese al mondo dove attorno alla Santa Sede esistano informazioni così che vengono usate con uno scopo denigratorio, come è accaduto da noi nei due decenni passati. Era fatale che questo prima o poi sfuggisse di mano. In tutto questo la statura e la figura del Papa, proprio perché distantissimo da queste cose, mi sembra finito per creare attorno a lui una zona vuota che viene riempita dal peggio che c'era. Voleva emanciparsi, il marito l'ha strangolata, il dramma in una coppia indiana del Piacentino. Kaur Balwinder era scomparsa 15 giorni fa. Era incinta e a casa, a Basilica Duce, vicino a Fiorenzuola, l'aspettavano il marito e un figlioletto di 5 anni. Una scomparsa che diventava via via più sospetta con il procedere delle indagini. Kaur, dicevano i carabinieri, non piaceva troppo alla comunità indiana locale. Era accusata di sorridere e dare troppa confidenza agli italiani e per questo era additata come una donna leggera e infedele. Il marito, Kalbir Singh, stalliere in un'azienda della zona, non la sosteneva affatto. Anzi, la coppia era arrivata sull'orlo del divorzio. Una scelta che Kaur forse era pronta ad affrontare con tutte le sue conseguenze, ma che l'uomo non poteva tollerare. Per lei il divorzio non arriverà mai. Il marito l'ha strangolata e gettata nel Po. Il cadavere è stato ritrovato ieri da un pescatore romeno a Isola Serafini. Messo alle strette, lo stagliere ha confessato l'omicidio. Si dice motivi passionali. Si legge possesso e sopraffazione. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Ancora cronaca, è attesa oggi la sentenza per un'altra storiaccia, quella degli abusi all'asilo Olga Rovere di Rignano Flaminio, alle porte di Roma. Il caso scoppia 6 anni fa e scuote l'opinione pubblica. Alcuni genitori presentano denunce contro le maestre della scuola Olga Rovere per presunte violenze sessuali nei confronti dei loro figli. Comincerà una lunga storia costellata da numerosi colpi di scena. Accusate sono 6 persone, poi diventeranno 5 con l'uscita di scena di un benzinaio cingalese. Sono 3 maestre, una bidella e un autore TV. I capi di accusa sono gravissimi: violenza sessuale di gruppo, maltrattamenti, corruzione di minore, sequestro di persona, atti osceni, sottrazione di persona incapace, turpiloquio e atti contrari alla pubblica decenza, tutti commessi con sevizie e crudeltà. Tutti e 5 oggi rischiano 12 anni di carcere. Per il PM il quadro di violenze raccontate dai bambini e riportato dai genitori è credibile. Le famiglie dei 19 bambini chiedono risarcimenti milionari. Per la difesa invece le accuse sono insufficienti e contraddittorie. Ci sarebbe stata una forte pressione dei genitori sui bimbi, vizi metodologici nell'attività del consulente del PM. Si chiede l'assoluzione. Questo pomeriggio alle 16 il verdetto. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Un operaio è morto a Roma dopo essere stato colpito dal braccio della gru sul ponteggio sul quale stava lavorando. È successo verso le 9:30 di questa mattina. Ferito un altro operaio. Speriamo, se siamo capaci di farli, è francamente una cosa buona. Con queste parole il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha commentato l'annuncio di ieri del ministro dei rapporti con il Parlamento Piero Giarda sulla possibilità di intervenire immediatamente con un pacchetto di tagli su 100 miliardi di spesa pubblica potenzialmente aggredibile. I tagli alla spesa pubblica sono importantissimi, bisogna fare tutto quello che si può fare anche per evitare che il carico fiscale sia troppo elevato per le imprese e per i cittadini. Queste le parole di Squinzi da Milano. E in attesa del piano del governo sulla spending review si scoprono intanto sprechi e differenze di costi nelle varie ASL. Sentiamo. Quanto costa una siringa a una ASL? In media 5 centesimi, ma c'è anche qualcuno che senza badare a spese ne ha sborsati 11 per assicurarsi il prezioso strumento. E che dire degli inserti tibiali mobili, in pratica i dischetti utilizzati per restituire mobilità al ginocchio? Qualche ospedale riesce a comprarli a 199 euro, altri sono disposti a pagarli 12 volte tanto, 2.479 euro per l'esattezza. A fare i conti in tasca agli acquisti di ASL e ospedali è l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che ha elaborato un primo sorprendente monitoraggio sui prezzi di riferimento della sanità, dati che il Sole 24 Ore in edicola oggi è in grado di anticipare. Le differenze anche per i beni di uso più comune come garze e aghi sono veramente tante, in media oscillano tra il 160 e il 170%. Insomma, un'arma in più per il neocommissario agli acquisti Enrico Bondi, che a questo punto nella giungla dei prezzi dovrà utilizzare il macete. Ma questo è solo un assaggio. Dal 1 luglio sarà online la lista completa di 400 tra farmaci, attrezzature e servizi, elaborata insieme con Agenas, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Regionali della Sanità. Valeria Uva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuovi arresti nell'inchiesta calcio scommesse e manette. Il capitano della Lazio Mauri, indagati fra gli altri Conte e Criscito, che è fuori dalla lista dei convocati per Euro 2012. Avrebbe ucciso la moglie indiana perché voleva vivere troppo all'occidentale. La donna voleva anche il divorzio. Seconda parte di GR24, attesa nel pomeriggio la sentenza nel processo milanese d'appello bis alle cosiddette nuove BR. I giudici sono in camera di consiglio. L'accusa ha chiesto 12 condanne a pene fino a 14 anni e un mese di reclusione. Dalla gabbia degli imputati sono partite minacce contro il giuslavorista Pietro Ichino, presente in aula come parte civile. Questo signore rappresenta il capitalismo, lui è l'esecutore di questo sistema e noi eseguiremo il dovere di sbarazzarci di questo sistema. Sono state le parole di Alfredo D'Avanzo, uno dei 12 imputati. Da parte sua Ichino aveva spiegato di essere ancora in pericolo. Oggi intanto si ricorda la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Ci troviamo dunque di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi ed obiettivi precisi. A Milano, al... Era il 28 maggio 1974. In piazza della Loggia a Brescia un ordigno veniva messo nel cestino dei rifiuti e spezzava il discorso del sindacalista della CISL Franco Castezzati, provocando 8 morti e oltre 100 feriti. 28 maggio 2012, per quella strage non vi è alcuna giustizia. Lo dice a gran voce in un messaggio il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, da sempre attento alle storie italiane che rischiano di rimanere appese nei meandri degli armadi della storia. Quegli armadi della vergogna, dove certamente sono ancora oggi archiviate le convivenze tra uomini degli apparati dello Stato e delle istituzioni e attentatori stragisti, che da Piazza Fontana a Milano il 12 dicembre del 69 fino alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980 colpirono oltre 400 persone, ferendo alcune migliaia di inermi cittadini sui treni, nelle stazioni, nelle piazze, davanti alle questure. Una lunghissima scia di sangue che non ha una giustizia di tipo penale, bensì conserva una memoria storica. Quella che oggi ricorda il presidente Napolitano in un messaggio al sindaco di Brescia, Adriano Paroli. Dice Napolitano che il corso della giustizia deve continuare con ogni scrupolo e che nel contempo va però fin da ora messo in luce quanto emerso dalle carte processuali, dalle inchieste parlamentari sulla matrice di estrema destra e neofascista di quell'azione criminale e sugli ostacoli che una parte degli apparati dello Stato frappose alla ricerca della verità. Daniele Biacchessi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continua a ribadire di non aver commesso alcuna irregolarità il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, ma la sua posizione si fa sempre più complicata. 1.100.000 euro. Sono soldi, racconta oggi il Corriere della Sera, passati dalle tasche di Roberto Formigoni a quelle dell'amico Alberto Perego, che col presidente della regione Lombardia vive in una casa insieme ai Memores Domini, associazione di laici di Comunione e Liberazione. Quei soldi, si tenga presente che il governatore dichiara 100.000 euro l'anno, sono serviti a Perego per comprare una casa in Sardegna. Venditore? Pierangelo Daccò. Già, proprio l'uomo intorno al quale ruota tutta l'inchiesta che lambisce Formigoni, il quale non è indagato e ancora ieri si è difeso con forza. Quel Daccò, arrestato a novembre per la vicenda del San Raffaele, e raggiunto il 13 aprile da un altro ordine d'arresto perché avrebbe ricevuto 56 milioni dalla Fondazione Maugeri, secondo i magistrati, per ungere le ruote in regione. Quel Daccò che ha raccontato delle vacanze pagate allo stesso Formigoni, del jet privato affittato per portarlo alle Antille a Capodanno, dello yacht messo a disposizione del Celeste, il quale, per conto suo, continua a parlare di falsità, nega e smentisce molte ricostruzioni dei giornali, ricorda che su di lui non è aperto alcun procedimento, ribadisce che non lascerà. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Anche oggi arrivano notizie di scontri in Siria, 5 morti, 2 civili rimasti uccisi ad Homs e Dama e 3 militari uccisi invece ad Aleppo. Intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha criticato le nazioni che sostengono che non esiste alcuna soluzione in Siria senza l'uscita di scena di Assad, sottolineando che entrambe le parti in conflitto devono essere oggetto di pressioni perché cessino di combattere. 2 giovani tibetani si sono dati fuoco per protesta a Lhasa, la capitale della regione autonoma del Tibet. Uno è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Negli ultimi 14 mesi altri 33 tibetani, in prevalenza giovani monaci buddisti, si sono dati fuoco per protestare contro la repressione cinese. Torniamo in Italia per andare in Emilia, dove oggi pomeriggio si terranno i funerali di una delle 7 vittime del terremoto di domenica e tutto il mondo produttivo si fermerà in segno di lutto. Intanto le scosse continuano e 2 interi quartieri rischiano di sprofondare a San Carlo, frazione di Sant'Agostino. Enzo Boschi, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al microfono di Anna Marino. Il fenomeno si chiama liquefazione del suolo ed è dovuto al fatto che gli ultimi strati che costituiscono la crosta terrestre, quelli più vicini alla superficie, sono in queste zone intrisi d'acqua, cioè si deve immaginare come tante spugne ricolme d'acqua, i pori pieni d'acqua. Queste spugne come se avessero subito un processo rapidissimo, fossero state strizzate in maniera molto veloce dall'evento sismico, e quindi l'acqua, o meglio fango molto fluido, è fuoriuscito violentemente abbandonando le zone dove si trovava prima. Quindi in certe zone abbiamo un abbassamento perché è come se del materiale se ne fosse andato. Ci sono delle crepe, che cosa rischia San Carlo di Sant'Agostino? Sono fenomeni abbastanza naturali, cioè abbastanza naturale che ci siano, naturalmente che erano problemi non indifferenti, ma bisogna tenere presente che un terremoto di magnitudo 6 è un processo estremamente violento. Tutto questo va visto edificio per edificio, casa per casa, ma comunque è come se si fosse creata una situazione completamente nuova rispetto a quella precedente. Cioè prima le case affondavano le loro fondamenta in zone abbastanza tranquille, adesso è stato tutto sconvolto, quindi si tratta di verificare casa per casa che cosa è successo. Terremoto anche nel Cosentino, due scosse di magnitudo 4.3 e 3.2 sono state registrate nella notte al confine fra Calabria e Basilicata, nei comuni di Castrovillari, San Basile e Frascineto. Nessun danno, ma tanta paura. È stato visto a Roma Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, in viaggio di nozze con Priscilla Chen. Luna di miele per Mark Zuckerberg, non per la sua creatura Facebook. Il fondatore del social network è stato avvistato con la neo moglie Priscilla a passeggio tra il Colosseo e la Cappella Sistina in maglietta e jeans come due normali turisti e non come i due miliardari appena sbarcati a Wall Street quali sono. Paradossalmente a scovarli sono stati gli utenti del social network rivale Twitter. Erano molto sereni, contenti, ha twittato un turista polacco, e per forza hanno appena incassato $1 miliardo. Meno contenti per ora i piccoli azionisti. Il titolo Facebook in borsa ha perso il 17% in una settimana, un flop per quella che era stata annunciata come l'offerta pubblica di acquisto del secolo. Ma fosse solo questo, l'opacità intorno a quel che è accaduto durante e prima lo sbarco in borsa è tale che ora indagano diverse authority. Pare ad esempio che Morgan Stanley, che ha gestito il collocamento, sapesse di una severa riduzione dei ricavi del social network nell'ultimo trimestre, ma l'abbia detto solo ai grandi investitori istituzionali, lasciando il cerino in mano a quelli minori. E mentre Zuckerberg pasteggia a Catalana di Gamberi e Carpaccio di Pesce da Pierluigi a Campo dei Fiori, i piccoli azionisti continuano a chiedersi l'amicizia su Facebook, ma avrebbero perso $2,5 miliardi. Valentina Furlanetto, Radio 24. Il Sole 24 Ore. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Paolo Corleoni. Prossimo GR24 alle 14. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.